bacan, signio, io presto, non vi voglio disgustar. Cai bacan, signio, io resto, non vi voglio, non vi voglio disgustar, no. Cai bacan, signio, io resto, cai bacan, signio, io resto, non vi voglio disgustar, non vi voglio disgustar. Thank you.

son salito da favore. Hai capito? Questo cuore pensa adesso come sta. Hai capito? Questo cuore pensa adesso come sta. Bella farò pagar. O nelle vene un fuoco, più non mi so frenar. O nelle vene un fuoco, più non mi so frenar. No, no, mi so frenar. No, no, mi so frenar. Sento freddo, sento freddo, un fuoco mi spetta, un fuoco mi spetta. Yeah. Isabella dall'Evante. Bene, questa è la trama, ella vi prega i brama che abbiate a secondare. Non vuoi perbacco, già saprai chi sono io. Non siete il signor zio. Ti pare? Come, come? Tu sai quel che più forte ignori il me. Ma per un qualche amante non t'avevo confidato la signora. So che un amante adora e per lui sono Kenya. E bene, sono quel mio. Me ne conso. Or su la tua nipote, con chi crede d'avere a che fare, preso m'avria costei, e non dei suoi battei. Ma perdonate, ella tutto è disposta. E mi dannate? Lo dici davvero? Sentite in confidenza, ella mi va a dirvi che sposi m'amò. D'amore. Ma leggo infine, che a rendervi di lei sembrevi degno, ella ha fatto il disegno con gran solennità fra canti e suoni, e al tremolar dell'amorose fati, e di volervi crear so pappataci. Che mai sento? Pappataci, che mai sento? La ringrazio, son contento, son contento, son contento. Ma di grazia, pappataci. E qual poi, che qual poi significa? Pappataci dei mangiar, pappataci dei dormir.

intrepido, il tuo dovere adempi, il tuo dovere, il tuo dovere adempi. Vieni per tutta Italia, rinasce Coraggiosa, coraggiosa, senza mal di fa. chi avria mai detto che un simile affetto portasse al suo tappeto? Fare una trama, forbellar un bei, a rischiar tutto per esser via. Hai mai male, signor? Vuoi buoni dov'è? Sta preparando quello che è necessario per far la cerimonia. Ecco il suo schiavo che qui appunto ritorna, e a seco il foro dei pappataci. Ed onorarmi dunque la bella, a tanta fretta. E la morte la sprona. Oh, benedetta. Yeah.

padre d'amore. Dicolo che sento, questo è un tradimento. Campati, urlati, ne siamo, signor, ne siamo d'accordo, ma che signor. Io son Pappataci. Ma quei? Mangetaci. Ma voi? Lascia far. Ma io? Lascia dir. Voi me, che ho da far? Voi me, che ho da far? Restar o partir? Restar o partir? Bel palo, se resto, se parco, il lampione, l'indolo, Isabella, son qua quelle buone, ma tutto m'ha dato, non so più che dir, ma tutto m'ha dato, non so più che dir. 歌舞剧场就到这里，感谢您的收听，欢迎关注北京音乐广播古典有限频道下面的精彩节目。